Guarda, questa modulazione ha migliorato? Un po' grande qua, è già molto più forte. Ma qua cos'era, il microfono normale? Sì, microfono palmare, dai. Cazzo, cos'è, un ZG quello o no? Un ZG, sì. Bella roba, bella storia. No, riescono bene quelli lì. Cavolo. Allora, bravo, ecco qua. Così va meglio. Aspetta un attimino. Qualcosa da così a così, guarda un po', fa 9,20 9,25 6, vabbè, poca roba, aspetta, ancora poco, dai, deve mettersi un po' in funzione, era tanti anni fermo. La radio cambia, giù. Ma ti dirò che non te la imbruttisce, a parere mio non te la imbruttisce. Va bene per me. Vabbè, imbruttire no, non credo. Eccolo qua. Ho fatto i capricci. E capo, c'è un bel forte, sei, capo. Mizzica. Io bene ti arrivo. Sì, Anto, questo è una cosa vecchia, è un vintage, un Serd SSP, non so se li conosci, dai, 23 canali, è un muletto della vecchia data. Però, aspetta, è una coppiata con un ampli piccolino e sto cercando di farlo andare. Che capo, sei un bel forte, sei, va veramente bene qua, usalo un po', usalo, non la salvo così, usalo, ogni tanto lo usi, va bene, capo. Sì, vabbè, ma sai cos'è, che siamo vicini e quindi non fa come dovrebbe fare. Vabbè, l'importante è che non mi saturi la radio, che non la imbruttisca, dai. Ma io non intendo saturazione in occhi. Tu? No, saturazione qua non la sento. Meglio, eh. L'importante è che la radio esca pulita. Vabbè, adesso vediamo quando c'è qualcuno da fare, adesso lo lascio attaccato, questo vediamo cosa esce fuori. Ok, e provo a farlo andare, ma segna allora lo smitterli, sì. Sì, va, è una roba vecchia, quindi non è che prova a vedere. 1, 2, 3, prova, mi senti? Sì, ma non ti posso dare un segnale avaro, molto avaro. Ti dirò che sta arrivando Santiago, sì, quindi è molto avaro. Mentre invece nell'altra è un po' più generosa. Santiago, sì, se sei 9,22, no? Che... cioè, minimo io sono... cioè, sono quasi la stessa, arrivo quasi, già quasi così arrivo. Santiago, sì, è troppo avaro. Ma... ascolta, ma tu ce l'hai il mio numero? No. Fa provare da Luca Manicomio. Ti può chiamare? Sì, chiamalo, dice a Tottino di mandargli il suo numero. Mandamelo su Messenger. Sai che tu ecco ti mando il coso io. Ehi, allora, prendo un telefono. Guarda, ti ho mandato un messaggio a te. È arrivato ora. Aspetta un attimino. Aspetta, stavo mandando una foto a un amico. Vediamo un attimino se riesco a trovarti. Allora. cacchio, aspetta un attimino, Antonio, guarda. Ti mando una foto di quello che sto usando, è una roba vecchia, eh. Ok, ti mando il mio numero, va. Diciamo che l'ho revisionato, adesso lo porto a revisionare, poi facciamo delle prove. Ti ho mandato il mio numero, ti. Eia, ho visto. Non ho visto la foto. Capita. Ma leggi cosa c'è scritto sotto. Sotto la, il quadratino bianco dove c'è scritto MA. Leggi bene però. Lo devo far cambiare due cose, poi. E qua sto provando così, giusto a fare. Stavando pochissimo, va. Stavando neanche 20, figurati. Ho visto qua c'è scritto lì. Questa è la radio vecchia, quella che ti ho usato, questa l'hanno regalata, è un muletto, è un 23 canali, mi piace, a parte che se la prendo in mano questa qua è più pesante, è questa che quello che stai usando tu. No, qui su Besa, non è rimpresso questa radio. No. Allo smettere in basso, sì, allo smettere in basso, questo è anche, come si chiama? Prima si era bravo, Uniform si era bravo, AM, l'FM non ce l'ha questa. Parecchio vintage, vecchio. Vecchio, ma se la tira ancora, cercando di far andare a provare, tanti anni fermo, insomma, molto fermo. Questo è l'MB5, invece io ne ho avuto uno che aveva i pomelli un po' diversi. Adesso mi hanno dato un messaggio a un amico, mi ha scritto bellissima radio vintage. Capo, già lo so già. Questo è bello, cavolo. Bello. Dammi un attimo. Ma la grande sì. Qua. Ma la grande sì. Sì. Aspetta. Devo vedere, però, tirando un po' di più, come avrebbero fatto. Vabbè, adesso lo lascio lavorare così perché lo devo aprire adesso, devo vedere un pochino due cose, cambiare due cose, poi vediamo, va. Il campo, vedi, è bello il campo, molto bello, se può andare bene anche, comunque canterà parecchio, eh? Sì, quando lo metto in ordine vediamo, adesso è giusto così, una prova, non ne ho voglia, sono entrato adesso, ho mangiato un paio di lavoro, e sinceramente non ne ho voglia di smanettare, di fare, di controllare. Però funziona abbastanza bene. Non so, anni 80 quella roba lì. Forse è anche più vecchio, forse è anche più vecchio. Adesso faccio una ricerca, vediamo un attimino. Lo sto usando perché tanti anni nello scaffale e oggi l'abbiamo riaggiunato. Però devo cambiare due cose lì per vedere un pochino. Ma sta andando al boom, forse al 20-30%. Sì, si vede già, l'ho giù visto. È perfetta la radio, no? Senza nessun saturazione, niente, è una belletta, funziona bene. Non lo so, adesso non ho avuto tanto, devo fare delle modifiche, non so neanche se è stazionale, non le ho neanche controllate, sto schiacciando e parlando, senza fare niente di che, capito? Quindi non ho controllato neanche cosa c'è di anomalo. Guarda, se l'ha lasciata così penso nulla. sono lasciata come, cioè, come si dice? Sono lasciata normale, dai. Cioè, sono lasciata come sempre, che non c'è occasionale di niente, non c'è da fare neanche adesso. Non c'è motivo, ma se non era di stazionare ti avrebbe già dato problemi. Aspetta che devo suonare la radio. Se lo abbassi si fa così. Si mette la radio, di segnale, vabbè, quello che... Sì, vabbè, ma la radio è molto più pulita, molto più brillante, proprio molto più bella di come era prima. Poi, vabbè, per quanto riguarda l'aiuto dei VAT, giustamente cambia. E a te come ti sta arrivando, ti? Guarda, non ti do un segnale perché ho un vintage vecchio, un set SSB e... cosa ti posso dire, Tonino? Prova a fare. E così è 5 watt. E così è 10 watt che dà proprio il Galaxy Saturnetto. Né più né meno, adesso rimetto come era prima. Ecco qua. Guarda, il mio consiglio se sei interessato, tanto fai, ti dico quello che ho visto, perché questo è molto raro come, come segnale, fai da 5 a 7, però quando si è 5 che metti a minima potenza, con i picchi positivi vai a toccare i 7, ma la radio è molto molto migliore. Quindi la lascio così, la lascio, dai, minima potenza. Secondo me puoi aumentare anche appena appena, perché ti togli anche un pochino di rumore di sottofondo, magari anziché 5 ne dai 7, prova. Ma c'ho la televisione accesa, capito? Devo pulire bene i contatti della batteria, del darne, perché ce n'è uno con leggermente di ossida e a volte non fa contatto, e in mano non vuole, guardi, sempre in piedi, c'ho dolori, sono operato da poco, quindi... No, questo ha, vabbè, questo ha neanche 5 watt, 4 watt, però sto alimentando un amplificatorino piccolino, vediamo un po' se riesco a farlo andare, ma è troppo tempo fermo, ci saranno le cose esaurite, quindi devo metterci mano. No, tu stai arrivando come al solito sempre, ultimo, dove vieni, nella decima. Vabbè, sto utilizzando un più 5, guarda, così è aiutato, mentre invece così è, diciamo, normale. No, va bene, Tino. Antonio. Ehi, eppure mi sono capizzato di una cosa. Capare il bongo, lo coso del bongo, il bongo un bullone del bongo in chive. Un bullone. E Dio vuole mettere il bullone. Capa, ma lo è. Vabbè, vuoi che il porto? 9:10 e io come ti arrivo là? Quella questione che stai facendo, sì? Ok, va bene, dai, dai, che io mi riposo, mi fa male, gà. Tutto gonfio sono. Però tengo acceso, dai. Oh, stai mai con me, Tino. E ciao Antonio, dai. Con X per me. Va bene, ciao, ciao. Suni, ciao Dico. Capo, non è con per me che devo pagare questa cosa. La roba da macchi. Praticamente mi sono accorto che c'è un buco nel muro e c'è un po' di pazzi in passi e si vede la cara. Incapita, non mi dici se mettendo un chiodino per attaccare un quadro? No, ci metto un bullone, ma così vedi più nulla. Senti un bullone, se ci passa Tony. Come c'è questo buco? Non ho idea. Vabbè, dai, che mi sdraio un pochettino, ci sentiamo dopo, già prego, ne ascolto, dai. Capo, ragazzo, ecco, vuoi che uscire a recuperarmi di giave, mamma mia. Antonio. Attento, bambolino. Antonio. Thank you. sul basso, eh? È negativo, non riesco a ascoltarti, basso, basso, basso. Allora, CQDX, Greco, Greco, QSL, Nord Sardegna. Sì, quasi 9.30, sì. confermerò positivamente. Dimmi, prova a vedere. Guarda, vabbè, non è tantissimo, non ci riesco a far andare come poc'anzi. E sono neanche alla metà, neanche alla metà. Non ci sono, non ci sono, sono scariche. Però sta salendo, aspetta. Forse sta aumentando ancora? Aspetta, Guarda un po' adesso. Già sta andando, già 9.40 non si è ancora arrivato, ma c'è 9.30, bello staccato. Un attimino, dagli il tempo, questo è, sai, come i vecchi, no? Piano piano, sai che qua devo accordare un pochino, no, mi serve una accordatura a monte per poter togliere le poche stazionarie che ci sono, perché ne ho una 1.5 di stazionare, se la porto a 1.1 sarà ancora di un bel po', un po' più. Guarda, però adesso qualche cosa in più sta dando. Guarda che bello smitter, si è aumentato. Aspetta, attimino, abbi pazienza. Ma prova a dividere se sta aumentando un po' più di più, dai, aspetta. Così come attorno, ha superato altri 30, guarda un po'. Quasi. Vabbè. Sono vecchie. Buono. Attimino. Vabbè, devo pilotarlo con un pochino di più fatto, no. Già va bene così, dai. Va bene, così è 9.30 spaccato, guarda, vedi. Sì, 9.30 spaccato, sì. Già basta, dai. Mi tocca un colpo, cazzo, arriva. Non te lo dico. Guarda, ancora andato, piano piano, è caldo, deve essere caldo. Ce la fa. Fa ancora di più, capito? È importante che non sporca la radio, Antonio. Capa, ma si sente un pochettino di compressione, no? Caspettina, ma è forte? Vabbè, magari perché sto parlando troppo vicino al microfono, lei si sente la compressione della potenza. Vabbè, quello c'è. Suga. Guarda, allora. Aspetta, allora, fammi vedere, allora, così è zero, così senza niente, guarda l'incremento, così quanto sono, vedi un po', e così è aiutato. Passi da 9.10 a 9.30. Non ci sono tutti, neanche la metà. Lo so. Va bene, dai. Diciamo che ti faccio un intervento, poi gli annullo anche la ventola e poi gliela metto comandata. Capo, ma gliele compri la fusata, ce li ha mi pare, le valvole. Sì, già ce li ha anche un amico che me le deve prestare per vedere se vanno bene, tanto sono ancora con la letto, quindi ce li ha. Le proviamo e poi vediamo. Capo, lei Se ce l'ha, compra, le metti nuove, guarda che va bene. Ehi, va buona tu, va, devo mollare momentaneamente che devo accendere il fuoco, quindi devo andare a prendere la legna fuori. E qua si stanno congelando. Ma io basta che ne metto un buffino in più, sto bene. Ok, dai, non c'è problema. Beh, nel caso ci sentiamo stasera, se coincide più tardi, dai, adesso vediamo. Grazie comunque a tu. E comunque già vada. Già va, già va. Thank you. avanti, avanti. Bim bum ba, bim bum ba. Diamo un controllo alla casa. Trovo 1, 2, 3, 1, 2, 3 9, 3, 3 Ehi, appiccia il sonno, va. Gonfiate la fascetta. Va, un antennino, una bumera. E poi che ci fossi. Questo è il tuo segnale di sempre. Che buono. Una bumera ho messo, dai. La modulazione com'è? Buonissima. Cavallotti. Io guardo cosa arrivando. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto scala. Cavallo, ma dai anche tu vai bene. Hai trovato, visto con la bufala che K, va benissimo. Va bene, dai. Va benissimo. Sono sei. Ma compagno. No, sono entrato adesso perché ho sentito fischiare. E niente, non so se c'è qualcuno qua. No, a domo, in compagnia sì o solo. No, a casa sono da solo. Adesso devi venire il Torino che dobbiamo uscire, fare un giro. Va bene, ti lascio, dai. Buona buon proseguimento. Ciao, già, sentiamo. Adesso va bene, lascialo così. Tanto tu lo so quello che vi porta, ma allora che non si capisca, va. No, no, no, l'ho toccato già, l'ho toccato perché stamattina stavo facendo delle prove anche io. Ti ho messo lo spezzone, ma dimmi tu, c'ho il tunnel più 3 con l'Inuit col 294 da paura, a livello di MC60. Però non lo posso tenere lì, no, questo io l'ho comprato per attaccare qua. Ma sta proprio tornato, guarda. Sono andato a vederlo quello là, ma è... c'ha la capsula bruciata, non funziona più. Troppi anni è rimasto fermo. Ah, quello che ti vogliono là? Allora, peccato, infatti anche lui è un po' così, ma ha detto no, allora lo tengo qua per ricordo, se funzionava te l'avevo volentieri così lo usavi. Abbiamo provato col tester e bruciato, nulla, non c'è manco continuità, niente, poi tutta la sede sotto della batteria è tutta ossidata, tutto messo male. Per quello, perché c'erano i contatti col coso, con l'ossido, e non te la facevo uscire per quello. No, già l'ha pulito, già l'ha messo la batteria nuova, capito? Tanto c'era il cavo esterno, gli ha tolto, no? Gli ha messo la batteria nuova, voce, proprio la non arriva alimentazione alla capsula, capito? Che si è bruciata. Io senza capsula originale non li voglio, questa è originale, perché poi la modulazione diventa paperina, diventa occupa, metallica, no, non mi interessa. Vabbè, se rubi di baci, ISU deve essere quello, non è che le puoi mettere. Una cosa se lo fai tutti, si brucia la capsula, non è troviata, per non buttarlo via, l'ha dato la capsula. Un'altra cosa è andare a comprarlo la capsula che non è la sua. Sono d'accordo con te, infatti, questo è originale. Anche le campane si intende. No, no, va bene, non c'è problema. Questo lo lascio qua al Galaxy, l'Inuit già c'è l'MB più 4 che esce bene lo stesso. Poi devo ancora ripristinare, fare la connessione all'SBE, c'ho anche quello per Simpson, quello grande, che si assomiglia al coso, all'Expander 500. No, già ne ho un microfono, già, ma non me la fotte nulla. Già va bene così, dai. Io uno la devo recuperare da tavola, un tavolo più 3, però nero, non mi piace grigio, grigio non mi piace, se no mi tocca per diciamo. No, guarda, trovati un pietro nero, B come questo, guarda. Così, le sigle sono quelle, Turner normale, che è quello grigio, Turner più 3B, che è questo nero, Turner più 3 Super Sidel, che è quello cromato, sempre Turner, quindi questo va molto bene, il più 3B, guarda, io l'ho sempre avuto, c'ho delle foto anche, stavo guardando, l'ho sempre avuto, ma andava sempre, sempre bene, il più 3B è andato sempre bene. Quindi bisogna trovare voi questi, anche se li fate in bagaglia, cioè qua io lo sto cercando, mio, un altro, più 3B, ma siamo 100, 120, 140, e la madonna, ragazzi. Uno c'è 80 euro. Sì, 80 l'ho pagato anch'io, compreso la spedizione, però ti ripeto, sei sicuro? Io l'ho preso... Sono andato a ritirarmelo io, l'ho provato, l'ho visto, ma secondo quello che ti spediscono cosa fai? È lì il problema. Io l'ho aperto davanti a lui, ho detto questi sono i soldi, me lo fai aprire? Certo, ecco, allora aspetta un attimino, ho aperto, ho guardato la capsula, Turner, perfetto, la capsula originale, ho aperto sotto, circuito originale, manomissioni non ce ne sono, a posto, tieni gli 80 euro, dammi il microfono. Vai, guardalo che te l'ho mandato. Aspetta, sto guardando. No, questo è quello grigio. Ah no, questo non è quello grigio. Io non lo prendo perché è grigio, non mi piace il grigio, se non mi tocca aspettare a verniciarlo. No, questo già. Il tuo primo modello. Lo vedi che... Guarda ecco, anche quello grigio che c'è qua, c'è scritto Turner Plus 3. Plus 3 vuol dire Turner più 3. Questo invece è il Turner più 3B. E non hanno fatto un sacco di modelli, ma sono sempre uguali. Cambiano colore e ti mettono una scritta. Cambiano colore e ti mettono un'altra scritta. No, non mi piace il grigio. Assolutamente. Boh, capito. Aspetta che sto guardando. E chi è? Ciao, Carlo. Ah? Antonio, molto bene. Antonio chi? Antonio. Sì, un mare, in un mare di alternata, Antonio. Non ti avevo riconosciuto. Antonio, un mare di alternata, non riesco a capirti di radio. Ciao Antonio, c'è io uno 110, Claudio, se ti interessa, meno. No, non li spendo io quella cifra da giudizio, io rimango sempre sugli 80 euro, aspetto, ma già lo trovo come questo, e 110 euro è troppo, non lo investo 110 euro per un microfono del genere. Assolutamente, 99. Questo microfono da 80, 90 euro, non di più, tanto questo è nuovo, nuovo, guarda che c'è anche nella foto di WhatsApp, è nuovo. Ha pagato 70 euro più la spedizione, 80 euro, però, capito, è uscito, è nuovo. Ma questo è il supersile di che, Claudio, non è normale. Già, cazzo, sei fissato tu. Tu comprati, allora, quando vuoi, noi andiamo a casa di Tonino, io porto il mio e li apriamo e li controlliamo filo per filo, capsula, circuito, e poi tu mi dici dove è la differenza. Non c'entra niente. Il primo si chiamava Turner, poi si è chiamato Turner più 3B e hanno cambiato il colore nero. Poi hanno fatto il Turner più 3 supersidere che gli hanno fatto la cassa, la componentistica della capsula cromata. Basta, non cambia niente. E come dice Roberto, no, le mettono un accessorio in più e le danno un altro nome. Il microfono è sempre uguale, cazzo. Toglietevelo dalla testa. Non cambia assolutamente niente. E quando vuoi io te lo dimostro. Te lo dimostro quando vuoi. L'ho già visto. Io ci avevo il Super Sidere che l'ho venduto a Gavino Joker. Avevo il Turner più 3 grigio. Gli ho messi uno vicino all'altro. L'ho aperto. Sono precisi e identici. Non cambia nulla. Ma io non so che la timbrica cambia, che è più forte come il microfono, e cioè io l'ho montato con le tune e c'è un bel po'. Però Torino c'è più forte, io ce l'ho a uno. Cazzo, ma te lo devo mettere così per uscire come quello di Torino già. Così te lo devo mettere. Non ho capito. Io lo tengo a uno, non lo tengo così. Vabbè, tanto. Questo sta a 20 anni, va vedendo, andando a farvi comprendere che io lo Super Sidere, che il Turner l'ho usato nel 1980, che non si avvia di manco cos'è, era lo Turner. E non fa rapiti. Vabbè, flipper. Vabbè, Claudio. Oi, dai, sta iniziando la partita. Ok, che partita c'è? Napoli-Juventus. Magari sei napoletano. No, no, giusto così per guardarla. Ciao Lu, buonasera. Buonasera a tutti. Allora sei ancora giù? Sì. Ah, è vero che oggi è sabato, tu vai il venerdì lì. Cappa cappa. Qua sono qua. Ciao Dani. Ciao Lu. E tanto. Ma dimmi una cosa Dani, adesso che sei qua, quanto è questo rame il chilo? Se non sbaglio è intorno ai 2,83 euro, se non sbaglio. Ah, cazzo, ne ho tipo 10 kg, lo accettano? E anche un chilo te ne prende, ti portate che tu glielo porti. sì, un chilo. Ah, vero, e non si comano, ne arregano pure un chilo. E poi se vuoi si comano, no? No, può comane. Può comane. Ma per farti capire che ne prendiamo anche un chilo, ce ne porti un chilo, ce ne porti una tonnellata, te ne paghiamo una tonnellata. Comunque 2,83 euro al chilo. Cazzo, come se lo... Siccome, vabbè, lo stavano buttando, dovrei buttare il buttato, lo devo pulire, devo levarmi quella guarnizione che ha sopra. Ma allora ve ne andiamo una mano che fermo a pezzi tutti questi direttivi che vi sono. direttiva, e dove? A casa. Ma chi è il rame? Ah no, non è il rame, quello è alluminio. La carica, volentieri. Ma che una moletta, è quella da sverginare. E l'alluminio quant'è? Se non sbaglio a 50 centesimi. Chi cazzo, 50 centesimi, mini bombe? L'alluminio è povero, perché ce n'è troppo. Faccio, stanno facendo i cavi in alluminio, i cavi di tensione in alluminio, e il rame lo stanno iniziando a scarseggiare. E dovresti anche saperlo, Claudio. E l'alluminio sta diventando, ce n'è troppo, è per quello che è sceso anche di prezzo. Oh, Dani, allora, Dani, qua l'ho detto a Google, che rame, allora, come già visto, gli ampi utilizzi destinato a questo metallo e le quotazioni in rialzo hanno stabilizzato il prezzo di mercato sui 7-8 euro al chilo. Sì, in fonderia. In fonderia ci hanno quel prezzo lì. Però ti ricordo che il rame viaggia in borsa, quindi il rame sale e scende di prezzo. E quel prezzo lì sono sempre in fonderia. Ho capito. Adesso ti mando una foto di rame serio. Rame serio, una bottiglia da 2 litri pesa 12 kg, guarda, adesso ti invio la foto. Cazzo, quello 10 kg ci saranno, 8-10 kg, quanto tu lo sommari, no? E mai, appena. Adesso ti invio la foto, aspetta. Perché 28 euro? Ah sì, a 3 euro, a 2,80. Se a 3 euro sono 10-30 euro, pariso. E se non la roba in chili? Ah, 30 euro, mi sembra è boh, tipo 10 euro così. Ma se è così caro come dice, va bene. Yes. Anch'io pensavo fosse molto meno. No, in fonderia c'hanno quei prezzi lì. Poi a quando entrare in fonderia ce ne vuole quintalaggio. Ci vuole il quintalaggio e il permesso dell'acquirente che li gestisce, che li dice, che li garantisce soprattutto. Io ti porto 8 tonnellate all'anno e vorrei un prezzo accessivo che... e loro ti dicono sì, ok. Quanto è un carico? 330 tonnellate, 300 quintali, 30 tonnellate, ok, io quel 30 tonnellate te lo faccio a 7 euro. Poi le altre successive viaggiano, dipende da come viaggia in borsa, magari scende, magari sale, tipo quando il petrolio era a 1,36, quando il petrolio era 1,36, il rame era oltre 5 euro. 5 euro, cazzo, tu pensa cosa era. Dani, ma questa foto che mi ha mandato cos'è? Tutto vaccinato? Il rame che facciamo con il mulino. Un bel ce n'è. Cazzo! Ti sto dicendo, una bottiglia da 2 litri, di quelle quercetta, quelle che vendono dello spin. Pesa 12 kg una bottiglia di quello. Tu pensa quanto peso c'è? Vabbè, per sicurezza tu hai fatto bene, perché io, vabbè, comunque 10 kg buoni ci sono, Se vuole farne quella roba che c'è sopra, ci metto il taglierino e lo buco subito, lo pulisco, no? Se no tu pagani la miseria. No, la guaina, tutto quanto le vittorie, l'importante è che c'è il rame pulito. Sì, la guaina, lui veniva al nome, sì, già c'è quella. Ehi, guaina, gomma, isolante, basta che ne lo studi. Attenzione, canale 10, gappa. Cazzo, visto... Cioè, allucinante, in costume, a 0 gradi con la neve. Ma ti rendi conto che è fuori di capo? Questo si chiama Antonio Iodo. Cazzo, bro. Ciao Antonio, buonasera, ciao Luca, ciao Danilo, che ti raccavi. Buonasera. Stare il ciumacco di cappello. Ah, Iodo, buona carità. Io sono qua, dai. Va bene, va bene. Gappa gappa. E Dani, comunque pensavo fosse più, come si dice, più che insomma lo pagassero meno, capito? Il cavacca va, lasciamo andare. No, quel metallo lì, il rame è sempre alto. E l'alluminio è sceso di parecchio. L'alluminio prima era 90-1,20 un paio di anni fa, adesso è sceso di parecchio. A fare un chilo d'alluminio devi fare un bel po'. Lo so, no, io già ne ho, c'ho un bel di pezzi direttive, però se costa così poco le lascio, non c'è problema. KK, avanti, bomba.